Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, eccoci insieme per iniziare insieme una nuova giornata. In linea con noi il dottor Giancarlo Maria Liumbruno, direttore generale del Centro Nazionale Sangue. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottor Liumbruno, parliamo di donazioni di sangue. Ormai da diversi giorni si segnala un calo delle donazioni di sangue un po' in tutta Italia, dovuto principalmente alla paura del coronavirus. Qual è la situazione? Sì, la situazione è quella che ha rappresentato lei. Ci è stato segnalato un calo diffuso delle donazioni dovuto appunto a un minore accesso dei donatori alle strutture di raccolta intraospedaliere e associative che sono sul territorio nazionale. E questo determina una riduzione del sangue a disposizione che attualmente è compensata perché in molte regioni, seppur non in tutte, e come abbiamo sentito dire anche dai mezzi di comunicazione, le attività chirurgiche elettive, quindi quelle procrastinabili, sono procrastinate, quindi sono rinviate, e quindi questo in qualche modo compensa. Però la situazione è una situazione di calo diffuso che noi dobbiamo contrastare per prevenire che poi al momento in cui saranno anche riprese le attività chirurgiche adesso posticipate, poi non ci sia un calo importante delle scorte. Sappiamo tutti che il sangue ha una scadenza, quindi ha una durata limitata nel tempo, quindi è necessario che l'attività di donazione prosegua in modo coordinato e costante. Non c'è da avere paura, abbiamo di concerto con il mondo del volontariato emanato delle raccomandazioni che ci consentono di essere completamente conformi a quanto indicato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, di quali raccomandazioni si tratta, dottor Liumbruno? Sono le raccomandazioni che noi abbiamo inviato con la modalità circolare a tutte le strutture regionali che coordinano le attività trasfusionali, e sono finalizzate anche a dare delle indicazioni per le attività di raccolta, quindi diciamo che bisogna privilegiare la chiamata convocazione programmata dei donatori in modo tale da regolare l'afflusso, far sì che non ci siano assembramenti, per così dire, passatemi il termine, nelle sale, negli ambulatori, nelle sale di attesa delle strutture trasfusionali. È stato indicato di adottare delle misure di triage preliminare del donatore al momento in cui il mondo del volontariato fa il contatto telefonico, quindi si fanno una serie di domande che già consentono di filtrare quelli che saranno gli accessi successivi. E poi si fa un triage a livello delle strutture trasfusionali, perché si misura la temperatura corporea in modo tale da evitare che chi è febbricitante, anche se non dovrebbe recarsi a donare il sangue, comunque si possa presentare in una sala di attesa dove ci sono molte persone, ci sono diverse persone in attesa. Quindi il sistema tiene, dottor Liumbruno, mi sembra di cogliere che il sistema per il momento tiene, voi vi siete organizzati, sì. Ma il messaggio è che non possiamo però aspettare, anche perché l'autosufficienza delle regioni, che sono normalmente compensate da quelle con maggior capacità di raccolta del sangue, potrebbe rischiare di andare in sofferenza. È così? Certo, è così, e bisogna tenere presente che noi ogni giorno diamo assistenza trasfusionale a circa 1800 pazienti, e questo lo dobbiamo continuare a fare. Abbiamo detto sì che sono rallentate alcune attività chirurgiche, ma i pazienti cronici. Dottor Liumbruno, oltre all'emergenza coronavirus vanno presidiati alcuni contesti. Dottor Liumbruno, oltre all'emergenza coronavirus indubbiamente vanno presidiati alcuni contesti. Certo, i contesti che sicuramente sono da presidiare costantemente sono quelli dell'emergenza urgenza e sono quelli dei pazienti cronici, come possono essere i pazienti oncologici, i pazienti affetti da emoglobinopatie. Basta ricordare che i pazienti con emoglobinopatie da noi assorbono circa il 15% del prodotto trasfusionale, quindi insomma sono numeri importanti e noi dobbiamo continuare in tutti i modi a garantirli, e questo lo possiamo fare solo se i donatori continuano ad andare regolarmente a fare la loro donazione presso le strutture pubbliche e associative. Perché le donazioni possono essere fatte in tutta sicurezza seguendo le precauzioni che sono precauzioni valide per tutti i cittadini. Le donazioni fatte presso le strutture del mondo del volontariato, le cosiddette strutture associative, sono un numero molto consistente in Italia, sono 1 milione su 3, quindi andiamo a fare donazioni presso le strutture ospedaliere e andiamo a fare le donazioni presso le strutture associative, perché è l'insieme di questo volume di attività che ci consente di garantire l'assistenza ai nostri ammalati. Si rivolga a un donatore che ci sta ascoltando per dargli le istruzioni per andare a donare. Che cosa deve fare? Deve contattare ad esempio prima il centro trasfusionale o l'associazione di riferimento per prenotare la donazione, o si può recare direttamente? È preferibile che il donatore che vuole andare a donare contatti preliminarmente l'associazione, cercando di privilegiare l'appuntamento in modo da evitare gli assembramenti. Gli assembramenti è una parola, un termine non corretto, in modo da evitare l'affollamento degli ambulatori, e quindi programmare la donazione al momento in cui si programma la donazione. E con il mondo del volontariato ci vengono fatte delle semplici domande volte a capire se si sta in buona salute o meno, e dopodiché si va a fare la donazione presso la struttura territorialmente più vicina al nostro domicilio. E si va a fare la donazione dell'emocomponente che in quel momento serve, che può essere il sangue intero, possono essere le piastrine, non dimentichiamocelo, può essere anche il plasma. Dottor Liumbruno, abbiamo sottolineato quanto sia utile e importante continuare a donare in tempi di coronavirus. Mettiamoci anche dall'altra parte, dalla parte di chi deve ricevere una trasfusione. Il sangue raccolto dalle donazioni effettuate durante il coronavirus è un sangue sicuro. Dottore, sottolineiamo anche questo aspetto, perché sulla rete ci sono tante fake news, tante bufale. Ecco, le donazioni ai tempi del coronavirus sono sicure sia per chi le fa sia per chi le riceve? Sì, le donazioni sono sicure, sono dei criteri di selezione che sono volti a escludere le persone che possono avere avuto contatto stretto con ammalati di coronavirus o che provengono da aree, quelle che sono quelle indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, da aree a rischio, e quindi ci sono dei criteri di sospensione, e però poi sappiamo che questa patologia si trasmette per il tramite, per via respiratoria, quindi si trasmette con l'aerosol che può contenere il virus, questo aerosol che si genera in seguito a colpi di tosse, starnuti, quindi non è una malattia a trasmissione trasfusionale. Ciononostante ci sono delle regole rigorose e volte ad evitare che personale, che donatori che non sono in buona salute accedano alla donazione, quindi c'è un filtro rigoroso. Dottor Liumbruno, i ragazzi sono a casa da scuola, anche naturalmente quelli che si stanno preparando per la maturità, oppure gli universitari? Potrebbe essere questo un momento per raggiungerli, per invitarli a diventare donatori? Ricordiamo quali sono i requisiti per diventare donatore e perché donare sangue è un gesto importante, anche e soprattutto per i giovani. Sì, è un gesto importante anche e soprattutto per i giovani, perché la nostra popolazione di donatori, ahimè, segue la curva di invecchiamento della popolazione generale, quindi abbiamo un po' meno donatori giovani e un po' più donatori di età media. Quindi è importante che i giovani si approccino al mondo della donazione, ed è importante che lo facciano se sono in buona salute. Se sono in buona salute e non hanno, non rientrano al momento in quelle categorie che vengono escluse per il rischio di contatto con soggetti positivi per il coronavirus, possono e direi debbono andare a fare la donazione, perché abbiamo bisogno di donatori tutti i giorni, e in particolare abbiamo bisogno di donatori giovani, che sono quelli sui quali è necessario investire per garantire il ricambio generazionale. Voi avete fatto delle iniziative anche nei mesi scorsi, negli anni scorsi, rivolte ai giovani proprio per sensibilizzarli alla donazione? Dottore, li vogliamo ricordare? Sì, sono state fatte molte iniziative, soprattutto dal mondo del volontariato e in collaborazione con il mondo del volontariato, che è sempre attivo con la sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole. nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università. E poi ricordiamo che quest'anno ci sarà un'iniziativa, l'Italia è stata scelta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per celebrare la giornata mondiale del donatore di sangue. Vogliamo allora in chiusura ringraziare tutti i volontari donatori che fanno un dono così grande. Sicuramente un ringraziamento enorme va a tutto il mondo del volontariato, a tutto il personale associativo che si prodiga presso le sedi di raccolta per promuovere e per promuovere la donazione e per assistere durante la donazione, e a tutte le donatrici e i donatori di plasma e di sangue che ogni giorno consentono al Servizio Sanitario Nazionale di curare i oltre 1800 ammalati. Dottor Giumbruno, la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e quindi chiudiamo con un invito. Grazie a voi, e l'invito è quello di, se siamo in buona salute, di recarsi, continuare a recarsi presso gli ospedali e presso le strutture associative per fare la donazione di sangue, di plasma o di piastrine. Grazie dottor Giumbruno, grazie a voi. Noi ci sentiamo come sempre a mezzogiorno per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Buona giornata da Nicoletta.